Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Si va ad iniziare quello che è l'ultimo volume della settimana di Eclettica. Giulio Caperdoni con voi, dopo Edo, prima di Marco Garavelli, di Claudio e di Maurizio Faulisi. Questo è il palinsesto solito di Rock FM, ancora per qualche settimana da godere, queste ultime settimane da passare assieme. Vi ricordo giulio@rockfm.com è l'indirizzo di mail, invece myspace.com/eclettica è il sito su cui trovare le playlist, il riferimento anche su come recuperare il podcasting e anche la possibilità di lasciare messaggi che possano essere letti da tutti. Abacrasta, il nome del mio paese. Non lo troverete in nessuna enciclopedia e neanche segnalato nelle carte geografiche. Al mondo non lo conosce nessuno, perché ha solo 1827 anime, 9000 pecore, 1700 capre, 930 vacche, 215 televisori, 490 vetture e 1163 telefonini. Questo era l'incipit della leggenda di Redenta Tiria, di Salvatore Niffoi. it will be. There's nothing else. Just us. And the cameras. And those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Thank you. la musica dei Megaphone che è ritornata in Eclettica dopo una brevissima assenza. Megaphone che ci siamo appena ascoltati con Lazy Suicide. Prima ancora invece Get Well Soon da Berlino. I sold my hands for food, so please feed me. È stato questo il grande pezzo. Mi lascio andare sempre quando parlo di Get Well Soon. Grande pezzo che ha aperto Eclettica. Si prosegue invece con quella che sarà una novità Matador a partire dall'estate, un disco per il quale ancora non c'è un'indicazione precisa di una data di uscita se non il generico Summer 2008. Jaguar Love è il nome della formazione, Take Me to the Sea è il titolo che avrà l'album, il brano è Baths Over the Pacific Ocean. La prima cosa che Carmine Pullana vide quando arrivò a Baraule fu una vecchia che salutava tutti quelli che passavano toccandosi genitali imbrattati di argilla rossa. Se ne stava sopra una montagnola di sabbia, ululando come una cagna mestruata dal male di vivere. Non aveva ombra. Il contorno dei suoi stracci svolazzanti si rifletteva come un paio d'ali spezzate sul verde muschioso del mare. In fondo, oltre l'ultima lingua di pietre salmastre, brillavano tra le dune i tetti delle capanne. argento fuso che si mescolava con gli ultimi fili di sole. Questo era l'incipit di Ritorno a Baraule di Salvatore Niffoi. Get to sleep for a week. Generations would follow the course that we'd charted from that sofa across. I couldn't wait to get started. You're Norma Desmond. Used to be in Silent Pictures. Used to be big. I am big. It's the picture that got small.